Il leone che va alla guerra, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Volendo Re Leon scendere in guerra, dirama un bando a tutti gli animali, che venga da ogni parte della terra, ciascuno nelle sue fogge naturali. L'elefante, oltre al combatter, a portar l'artiglieria, e i foraggi è valentissimo. Gran maestra in strategia è la volpe, e sa la scimmia il nemico gabellar. Salta l'orso ed è terribile le fortezze ad assaltar. Volevano i ministri mandar via gli asini sciocchi e i timidi lepratti, ma non volle il leone a tutti i patti. L'asino, disse, a fare da trombetta ha una voce più forte della mia, e la lepre sarà nostra staffetta. Il leon capì, da saggio, che si può cavar vantaggio da qualunque attività, nulla è inutile a chi sa. Fine della favola Il leone che va alla guerra. Questa registrazione è di dominio pubblico.